Massimo D'Alema, se ancora vi ricordate di lui, aveva tra le sue molte ambizioni quella di fare dell'Italia un paese normale. Evidentemente non c'è riuscito. Non c'è nulla di normale, diciamocelo pure, in un paese in cui il problema politico principale, a 3 settimane scarse da un'importante votazione, è quello di come cancellare dalla lista elettorale i nomi dei concittadini defunti, e che dalla realizzazione o meno di questo obiettivo fa dipendere non solo la stabilità del governo, ma anche la coesione della maggioranza e la credibilità dell'opposizione. I morti si sanno, hanno sempre avuto un ruolo importante nella nostra storia elettorale. All'alba del suffragio universale, in età giovitiana, non soltanto figuravano in gran numero nelle liste, ma votavano in massa, garantendo al governo quella stabilità e quella libertà di manovra che anche allora erano in tanti ad auspicare. Ma francamente credevamo che il problema fosse superato. E se la revisione degli elenchi relativi una volta era un fatto burocraticamente difficile e operativamente complesso, che richiedeva parecchio lavoro impiegatizio e una certa scrupolosità organizzativa, per cui non lo si poteva fare che 1 o 2 volte all'anno e chi c'era c'era e chi no, oggi la tecnologia informatica dovrebbe avere semplificato non poco le procedure necessarie per cancellare se non altri defunti, e qualsiasi governo normale, di destra o di sinistra, dovrebbe essere in grado di farlo senza costringere quella povera donna della Bonino, che ormai deve avere anche i suoi anni, a starnazzare per le pubbliche piazze. Ma il governo normale non è, il paese nemmeno, e visto che cancellare i nomi dei morti non è poi così facile, qualcuno deve aver deciso che si poteva approfittare dell'occasione per cancellare anche un certo numero di nomi di vivi, magari perché irreperibili, come se l'irreperibilità anagrafica comportasse tra le varie sue conseguenze la perdita dei diritti civili. Un altro bel esempio di normalità, lo ammetterete anche voi, è il caso dello sciopero bianco. Quello a cui sono ricorsi o avrebbero dovuto ricorrere, non ho capito bene, quei poveri martiri calunniati degli agenti di polizia penitenziaria. Lo sciopero bianco, come saprete, si realizza quando i lavoratori in lotta si guardano bene dall'astenersi dal lavoro, in genere perché per motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità ne sono impediti, ma esprimono lo stesso una propria protesta applicando con un scrupolo grandissimo tutte le norme relative, tutti i regolamenti, il che comporta automaticamente il blocco completo dell'attività in questione. La cosa significa, a ben vedere, che i regolamenti di solito non vengono applicati, che anzi la loro applicazione è considerata nociva e pericolosa, e che l'efficienza in ultima analisi si identifica con l'illegalità. Il problema non riguarda soltanto gli agenti di custodia, anche se nel loro caso questa forma di protesta, risolvendosi in una vera e propria vessazione a danno di soggetti già abbastanza disgraziati, risulta particolarmente sgradevole. Il fatto è che quando qualcuno, doganieri, insegnanti, camionisti o chi altro, ricorre a questo singolare strumento di lotta, le reazioni dell'opinione pubblica possano essere le più varie, ma nessuno, a quanto mi risulta, ha mai eccepito che le regole, se ci sono, vanno rispettate comunque, e che se esistono delle buone ragioni per non applicarle, tanto vale abolirle e non pensarci più. In un paese normale, in effetti, di scioperi bianchi se ne potrebbe fare al massimo uno. Subito dopo, chi di dovere provvederebbe a far piazza pulita di un insieme di normative che, ben lungi dal regolare il corretto svolgimento delle varie attività pubbliche, se applicate lo bloccano. E se qualcuno si chiedesse che cosa mai c'entrano l'uno con l'altro lo sciopero bianco e la mancata revisione delle liste elettorali, non ci vuole poi molto per identificare l'elemento che unifica entrambe le pratiche. Sono tutte e due le conseguenze di una diffusa situazione di arbitrio. L'amministrazione dovrebbe tenere aggiornati gli elenchi dei morti e dei vivi, certo, ma non lo fa. Non lo fa perché non sempre disporre di un elenco aggiornato rientra negli interessi di chi detiene il potere, come si è visto in questi giorni. E le norme che regolano lo svolgimento dei servizi pubblici dovrebbero essere fatte rispettare se utili o abolite se dannose, ma è molto più conveniente tenerle in un limbo da cui farle emergere o meno, a seconda di quanto conviene alla propria parte, perché c'è chi le regole le deve rispettare tutte, senza eccezione, perché se sgarra di un millimetro lo ammazzolano immediatamente, e chi, beato lui, può permettersi di scegliere caso per caso. Questa sì perché mi va bene, questa è meglio lasciarla da parte e poi vedremo con calma. Il nostro è un paese di normale ineguaglianza e questo probabilmente è il suo guaio peggiore. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. Oh, a proposito, sembra che alcune delle forze politiche di maggioranza ed opposizione che più si sono mostrate riluttanti all'idea di ripulire le liste elettorali, come si è detto, non abbiano agito perché spinte da inguaribile necrofilia, ma in base a un sottile ragionamento politico. Il numero degli iscritti, si sa, non sarà ininfluente sugli esiti della prossima consultazione referendaria. Perché un referendum sia valido bisogna che voti una certa percentuale di cittadini e visto che meno aventi diritto ci sono, più facile raggiungere quella percentuale, e questo è in sostanza il famoso quorum, quei 300.000 o 400.000 nomi in più o in meno potranno essere in qualche modo determinanti sul risultato finale. Ciò spiega l'accanimento che in molti hanno dimostrato e spiega anche perché un provvedimento in sé affatto normale, come l'adeguamento anagrafico degli elenchi dei votanti, abbia assunto un carattere, diciamo, un po' ambiguo. Quando un governo interviene sulla composizione del corpo elettorale in prossimità di una consultazione il cui risultato da quella composizione dipende, per quanto buone siano le sue ragioni, si sente sempre una certa puzza di bruciato. Ora, nel merito del prossimo referendum, come ben sapete, io non posso proprio entrare, almeno in questa sede. Me lo impedisce la legge sulla cosiddetta par condicio, una normativa tanto iniqua quanto superflua, cui la direzione della nostra radio ha purtroppo deciso di adeguarsi. In ogni caso, in tempi più liberali ve ne avevo parlato quanto basta perché possiate immaginare come la penso, e sempre in ogni caso, penso che siate d'accordo anche voi sul fatto che in un paese normale i veri problemi di fronte a un quesito referendario dovrebbero essere soprattutto di merito. Le forze politiche, cioè, dovrebbero dedicarsi soprattutto al compito di spiegare ai loro elettori perché considerano vantaggiosa o meno per la comunità l'abolizione di questa o di quest'altra norma. Se del merito dei vari referendum oggi si parla tanto poco, se le polemiche riguardano tutti degli aspetti formali, quale l'opportunità di andare o non andare a votare, un motivo dovrà ben esserci. Io personalmente ho il sospetto che molto dipenda dal fatto che i quesiti che tra due domeniche chi andrà a votare troverà sulla scheda e sono per la maggior parte troppo complicati o specifici perché su di essi si possa dibattere con profitto. Riguardano in buona parte delle problematiche troppo particolari che richiedono un certo grado di competenza tecnica di cui molti non si sentono affatto provvisti. Il problema delle carriere dei magistrati, per dirne uno a caso, o quello della modalità di elezione del loro consiglio superiore, pur essendo di indubbia importanza, non discutiamone, non sono esattamente al centro del dibattito popolare. Certo, c'è il decreto, c'è il quesito sulla legge elettorale, ma l'avete visto? Per farlo entrare tutto sulla scheda è stato necessario ricorrere a caratteri tipografici talmente minuti da richiedere l'uso di potenti lenti di ingrandimento. E d'altronde il problema non è quello di abolire o meno la legge elettorale vigente, tanto i sostenitori del sì quanto quelli del no, in effetti, concordano sul fatto che quale che sia il risultato il Parlamento dovrà rimetterci le mani, per cui agli elettori si chiede solo ad esprimere una generica preferenza per il sistema proporzionale per quello maggioritario e può darsi benissimo che vi dia ad esprimere soltanto una generica preferenza a molti non vada. Resta il quesito sulla reintegrazione obbligatoria dei licenziati senza giusta causa, visto che quello del finanziamento dei partiti chissà come mai è un quesito di cui non parla nessuno. Ma a questo punto le probabilità che anch'esso sia riassorbito, come si dice nel contesto, sono piuttosto alte. Insomma, stiamo per andare a votare su una serie di problemi specifici e complicati, orientarsi sui quali è tutt'altro che facile. E le forze politiche hanno mostrato qualche segno di vita soltanto quando si è trattato di depennare i defunti. che gli dei li perdonino e che abbiano soprattutto compassione di noi.